andare in cucina sulla non mi piace. Sì, una volta avevamo questo gruppetto, poi io mi sono rotto le palle, cioè una volta, tanti anni fa, praticamente avevano portato questo liquore buono, la mela, cosa era, non mi ricordo bene. E praticamente gli altri li abbiamo lasciati pescare, noi abbiamo mollato la canna lì, no? Lanciato, gustato il liquore alla pesca, alla mela, boh. Drumi, mezzi drumiti. Abbiamo cominciato a scazziare, a guardarci le stelle, e poi sai dove eravamo? Cioè eravamo in quelle piattaforme zona Pro Torres, no? Quegli scogli protesi nel mare, ed eravamo cucati a bordo dello scoglio, cioè bastava sbagliare appena e ci finivi in acqua, e da lì non risalivi, perché lo scoglio era alto vari metri, non ti recuperavano da lì. C'è questo quella volta, però ci siamo divertiti. E noi pigliando di dire pescate, non hanno pigliato niente, non hanno preso. Ma dopo dietro l'altro fondale? Dietro? L'altro fondale, dove attracca la nave francese. No, è presente tutte le curve che vanno da Balai Lontano, cioè tu vai, lasci Balai Lontana e entri nelle curve per entrare a Pro Torres, lì. Quegli scogli che si protendono nel mare, che poi se guardi a sinistra dallo scoglio vedi a una certa distanza Balai Lontana. No, scusa, Balai Standard. Balai vicino, sì, lì dove c'è la chiesa di Balai vicina, non lontana. Lì si pescano quelli di calamari di notte, perché ci sono i fari che chiudono nel mare, i calamari vanno dove c'è il vicino. Vanno tutti quanti assieme, sono. Ma chi è Luigi? Mi senti Luigi? Mica ti sta chiamando Marco. Marco Condo. Luigi, mi copi, qua arrivi di radio benissimo. Sei Santiago 6, modulato 6 e mezzo. Mi hai copiato? Credevo di sentire da Palmadula segnali o arrivare addirittura a Palmadula. Meglio. Perché? Non è che sia così lontano Palmadula. No, lontano no, ma non ho mai avuto riscontri, perché da lì non modula più nessuno. Vabbè, modulava Panino, ma 40 anni fa, quant'era? Franco Panino. Però io all'epoca avevo un'antennina, cioè un'antenna Grand Plain, ma bassissima, circondata dai palazzi. Quindi lui, io lo sentivo, ma lui non arrivava. E poi aveva, volendo, anche antenne e potenze buone, Panino. Mamma mia cosa gli era successo poi. Per due malfidati poi, se ti ricordi, per aver soccorso due, ma io li avrei lasciati alla deriva, li avrei lasciati. No, non lo so cosa ti è successo. Comunque c'è Bobone anche in quella zona. Chi c'è? Bobone. Bobone! Boh, non lo so. Non li conosco di nome. Io attualmente qualcuno ad Alghero, ma poi per il resto è deserto, non c'è gente da Campanella come c'era una volta di Pisidoro, ma lì parliamo di storia antica, storia veramente antica. Sì, infatti, siamo in ricordo, ma questo panino cosa era successo con un campanello? Vabbè, io per sentito dire, adesso non vorrei dirlo qua, vabbè che no. Non so manco più se è in Italia lui. Vabbè, in sostanza lui era entrato in banda nautica perché questi chiamavano disperatamente che erano alla deriva. E lui ha fatto da ponte con la capitaneria o l'ha chiamata per telefono, io ho sentito dire sempre. Insomma, sono stati bene o male soccorsi, questi due però alla deriva erano forse due carabinieri o roba del genere, però poi lì hanno detto chi è questo che è entrato in banda nautica senza nominativo, insomma hanno indagato, hanno fatto, sono andati lì in forze e li hanno trovato di tutto di più, perché lui aveva lì neroni, antenne, apparecchi. E all'epoca c'era il penale di quello brutto, oltre che la sanzione che sarà stata elevatissima. Si diceva che fosse scappato in Brasile per evitare le conseguenze, ma voci di corridoio, non lo so. Comunque un bel casino, all'epoca castagnavano di brutto. Adesso io sapevo che dal 2017 per esempio il penale non c'era più per molte cose attinenti alla radio, era stato abrogato, a meno che non l'abbiano reintrodotto. Sì, vabbè, ma quando dici con le frequenze... Beh, tu spariti.